Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati con il consueto quotidiano appuntamento con l'attualità internazionale. Il buongiorno vi arriva anche da Mira Lucchetti e Nadia Zammitti, che sono in redazione, e Gianmarco Ferronato in regia. Commenti, suggerimenti e domande su Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, su Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24, oppure via SMS al 349-238-6666. E poi, ormai lo avete capito, novità di questo ciclo di Nessun Luogo, l'ultima parte della trasmissione, c'è anche il microfono aperto per voi, 800-24-00-24. Puntata ricchissima questa, perché l'attualità internazionale ci dà tantissimi spunti. Partiremo dall'emergenza Ebola, che sta coinvolgendo ben 4 paesi africani nell'Africa occidentale, per capire meglio quanti motivi di preoccupazione ci possono essere anche per l'Europa, quindi al di fuori di quei 4 paesi. Poi però ci sarà un piccolo spot, una piccola luce da accendere su Calais, la questione immigrazione, quindi andiamo in Francia, e poi a Phnom Penh in Cambogia, perché c'è un primo verdetto per 2 Khmer rossi molto molto anziani condannati all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Tutto questo nella puntata di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano, però non prima di rispondere a un ascoltatore di ieri. Ve lo ricordate, aveva fatto 2 domande molto importanti, quindi parliamo di Afghanistan. Sì, perché il commento doveva essere breve, in realtà 2 domande importanti e lunghe per le quali abbiamo deciso di prenderci alcuni minuti per rispondere. Le 2 domande erano queste sostanzialmente. L'ascoltatore partiva dalla riflessione dell'esercito afghano, che è un esercito multietnico con appunto tante etnie, gli Azari, i Tagiki, i Pashtun eccetera, e allora lui azzardava una soluzione, capiremo meglio quanto sia attuabile. Diceva, beh, la soluzione non potrebbe essere uno stato federale, quindi stato federale etnico, per smussare quelli che sono i contrasti e le contraddizioni appunto di questo stato. Questa è la prima domanda. La seconda domanda era, ma come si finanziano i talebani? Ebbene, in proposito, sono svariati rapporti ONU, in particolare dell'ufficio anticrimine dell'ONU. Da un lato abbiamo le coltivazioni di oppio, per cui alcuni signori dei talebani si occupano anche del commercio dell'oppio. Poi vi sono tasse locali, ad esempio sui territori da loro controllati. Ci sono le estorsioni, ovviamente quelle fatte sulla base di atti criminali un po' più comuni, e poi c'è tutta in realtà una serie di apparati finanziari molto molto nascosti con banche del mondo arabo, che fanno arrivare flussi di denaro dai paesi del Golfo, per esempio dall'Arabia Saudita, senza poi contare ovviamente tutta la comunità Pashtun in Pakistan. Vi sono alcune comunità che supportano appunto la guerriglia talebana. Però è meglio scendere un po' in profondità su questo aspetto, in particolare su quello del traffico di oppio. Lo rifacciamo con Andrea Carati, che è ricercatore dell'ISPI e dell'Università di Milano. Dottor Carati, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci, allora partiamo dai finanziamenti ai talebani. Io ho fatto una rapida spolverata, no, su quelle che possono essere le fonti. Proviamo ad andarci dentro un po' più con precisione. Sì, dunque, le fonti di finanziamento le ha già citate quasi tutte lei, un elenco abbastanza completo. Io aggiungo 2 riflessioni. La prima riguarda più in generale l'economia di una guerra come quella che stanno combattendo i talebani, che è una guerra di insurrezione. Le guerre attuali vengono spesso definite come guerre asimmetriche. C'è una simmetria economica in realtà. Noi da occidentali ci aspettiamo che per mettere in scacco un esercito internazionale come quello della NATO, degli Stati Uniti, bisogna essere necessariamente ricchi. Invece non è così. C'è una simmetria economica, per cui per le truppe internazionali è estremamente costoso stare sul campo, è estremamente costoso condurre anche le operazioni più semplici, quelle di rifornimento delle basi più avanzate eccetera, che sono sempre accompagnate da una copertura aerea eccetera, quando per i talebani in realtà segnalare la loro presenza e scombinare i giochi internazionali è un gioco piuttosto economico. Spesso bastano i cosiddetti YETS, gli improvised explosive devices, dei dispositivi diciamo quasi artigianali. Basta spesso una pentola a pressione riempita di bulloni con dell'esplosivo, e questo mette, toglie la sicurezza che magari gli internazionali hanno costruito in anni in un villaggio, e questo risposta agli equilibri a un costo quasi irrisibile. Certo. Tornando invece pochi secondi sulle fonti di finanziamento, io credo che il cuore del problema sia proprio l'oppio, la coltivazione di oppio, che non a caso è concentrata proprio nelle zone dove i talebani sono più forti, e fra produzione di oppio e talebani c'è un rapporto molto stretto, un rapporto quasi simbiotico, per cui coloro, contadini, che spesso non sono allineati ideologicamente e politicamente con i talebani, ma hanno l'interesse di preservare, di mettere in sicurezza le proprie coltivazioni di oppio, i loro diritti di proprietà sono garantiti proprio dai talebani, che in cambio comprano l'oppio da loro e poi lo smerciano internazionalmente. Ricavano due benefici, uno economico molto significativo e l'altro un legame socio-politico, diciamo, con questi coltivatori, che li tiene legati a loro piuttosto che all'intervento internazionale. Chiarissimo. E per dare una dimensione della cifra che i talebani potrebbero avere dalle coltivazioni di oppio, sempre le Nazioni Unite parlano di 400 milioni di dollari all'anno. Scusate, 100 milioni di dollari all'anno, 400 era la cifra totale comprensiva di tutte le fonti, diciamo, di approvvigionamento finanziario. Dottor Carati, poi c'è quell'altra domanda, che è quella sì che è difficile, no? Perché Stato federale in Afghanistan a seconda delle etnie, per risolvere e smussare le contraddizioni. Ma allora, io condivido la domanda, ma in realtà poi la suggestione del commento avanzato dall'ascoltatore ieri, un paese profondamente diviso sul piano etnico necessita, se non di un governo federale, almeno di una forma di governo molto decentrata, che dia autonomie, che riconosca le differenze etniche, eccetera. Però non bisogna dimenticare due cose: la prima è che anche uno Stato federale, uno Stato molto decentrato, necessita in ogni caso che la comunità politica in generale, quindi tutti i gruppi etnici, percepiscano una qualche forma di appartenenza generica a uno Stato unitario. E questo manca, questo è l'aspetto più difficile da costruire, non è un aspetto di pura ingegneria istituzionale, ma bisogna lavorare sul serio sulla legittimità che i vari gruppi etnici riconoscono al governo centrale. E in secondo luogo va tenuto presente un'altra cosa: la costruzione dello Stato afghano, almeno dal 2001 in poi, è una costruzione eterodiretta fatta dalla comunità internazionale. E tutti i progetti cosiddetti di state building per forza necessitano di una qualche forma di centralizzazione per tenere, diciamo, on track, per tenere sul binario giusto la ricostruzione istituzionale, eccetera. E questo necessariamente, quando è fatto dall'esterno, dalla comunità internazionale, prevede necessariamente una forma di accentramento del potere, almeno nelle fasi iniziali. Chiaro. Insomma, in sostanza, uno Stato federale, bisogna però avere uno Stato forte all'inizio, quantomeno, prima di decentrare, e questo è forse il grave problema che attanaglia l'Afghanistan in questi ultimi anni. Grazie mille, dottor Carati, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Anche a voi, buongiorno. Domande, suggestioni, commenti 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano -24, Twitter Nessun Luogo 24, oppure Jampaz. Mi piace, vorrei che questa trasmissione fosse anche un luogo di confronto e di stimoli, ai quali cercherò di rispondere prontamente. E da una crisi politica, quella afghana, passiamo invece a un'emergenza tutta sanitaria, ma che può avere impatti anche dal punto di vista politico. Parliamo dell'emergenza Ebola. This is the largest outbreak since Ebola was identified in 1976, a killer that's now taken more than 700 lives in Sierra Leone, Liberia and Guinea this year. Dr. Kent Brantley arriving Saturday, the first Ebola patient on US soil. Miguel Pajares, il sacerdote. E come sentite, tutti i più grandi network internazionali dedicano l'apertura dei loro telegiornali, quasi tutti, alla più grande epidemia di Ebola a partire dal 1996. Le ultimissime dicono che è stabile il missionario spagnolo che è rientrato dalla Liberia. È morto invece un uomo d'affari saudita di ritorno dalla Sierra Leone, morto ieri a Jeddah, appunto. E come anticipavo nel GR delle 13, in Sierra Leone sono stati schierati 800 militari per controllare i centri dove sono ricoverati i malati, 750 militari in verità più 50 infermieri per garantire che la quarantena venga rispettata, mentre in Liberia la presidentessa ha decretato lo stato di emergenza. Allora, prima di capire meglio che cos'è Ebola, come funziona, quali rischi vi sono, spieghiamo dove siamo. Siamo nell'Africa occidentale, stiamo parlando di due paesi, Sierra Leone e Liberia, che sono stati in passato attanagliati da guerre civili sanguinosissime. Stiamo parlando della Guinea Conakry, un altro paese molto vicino a Guinea-Bissau, parente diciamo, quantomeno di nome, un po' più piccolo. Siamo appunto in Africa occidentale, e poi però c'è quello che preoccupa il governo di Lagos, c'è un'estensione di Abuja, scusate, un'estensione dell'epidemia anche in Nigeria, e forse la Nigeria, gentili ascoltori, la conoscete un po' meglio, quantomeno perché le notizie da lì arrivano un po' di più e guarda caso sono spesso drammatiche. La Nigeria è la prima economia africana, 160 milioni di abitanti, e da dove ultimamente tristemente escono dati di cronaca riguardanti gli attacchi della setta islamista di Boko Haram. Questo per dire esattamente dove siamo, con chi siamo. Siamo col dottor Saverio Bellizzi, epidemiologo di MSF, che è appena ritornato dalla sua seconda missione in Guinea Conakry. Dottor Bellizzi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti, buongiorno. Allora, la prego di essere ipersintetico, partiamo dalla definizione di questo virus. Che cos'è Ebola? Ebola è un virus che è stato scoperto nel 76 durante un'epidemia in Congo, e che quando entra in contatto con l'essere umano e con i primati dà una malattia estremamente grave con decorso molto veloce, esattamente una febbre emorragica. Costa di 5 ceppi, e sfortunatamente quello che è in atto, il protagonista adesso di questa epidemia, è il ceppo più virulento e che causa la mortalità più alta, che è il ceppo Zaire. Come avviene il contagio, dottore? Il tutto nasce, allora, il virus alberga normalmente senza dare alcuna malattia in alcuni pipistrelli che vivono nell'area tropicale africana, e normalmente un cacciatore, una persona che cucina il pipistrello, quindi che lo mangia, se non è ben cotto il virus entra in corpo, inizia a replicarsi e causa malattia. Poi rapidamente c'è il contatto con i liquidi biologici della persona malata, non fa altro che contaminare altre persone, e da qui si diffondono i vari focolai. Allora, questa è la situazione clinica che è chiara, e data questa situazione clinica mi sembra che poter dire che voi operiate in condizioni estremamente difficili, perché dovete garantire il perfetto isolamento vostro come operatori rispetto al paziente. Quanto è difficile lavorare nelle zone colpite da Ebola? È molto difficile per diversi aspetti. Da una parte c'è appunto la cura dei pazienti affetti da Ebola, e Medici Senza Frontiere è l'unica organizzazione al mondo che ha l'esperienza per fare ciò. E nei presidi sanitari che vengono creati appunto da noi bisogna rispettare delle procedure, degli standard ben definiti, con queste tute che causano un grosso aumento della temperatura interna, infatti non si può stare per più di un tot, di un periodo all'interno dei centri, c'è un grande turnover. Allo stesso tempo l'altro lato è il contenimento dell'epidemia, quindi bisogna veramente identificare e seguire per almeno 21 giorni tutte le persone che sono stati stretti contatti della persona malata, appunto per identificarli immediatamente e nel momento in cui sviluppano dei sintomi testarli ed eventualmente isolarli se sono positivi. Dottor Bellizzi, dai sintomi che lei mi descrive, in realtà l'inizio di Ebola può essere facilmente confuso con altre malattie tropicali, magari la malaria o altre febbri emorragiche? Assolutamente sì, non ci sono dei sintomi che sono specifici, ma abbiamo la febbre, abbiamo vomito, diarrea, dolori articolari, quindi sintomi che sono comuni con la malaria, con altre febbri emorragiche. Di conseguenza bisogna veramente stare molto attenti, soprattutto perché in queste zone adesso è la stagione delle piogge, quindi l'incidenza della malaria è notevolmente aumentata, e quindi bisogna fare uno screening molto attento. Dottor Bellizzi, siccome vi è stato un panico che la rete Facebook ha ampiamente amplificato, fra l'altro la polizia postale ha poi arrestato l'autore di quel terrorismo cibernetico, terrorismo di rete, aveva detto tre casi a Lampedusa con non so quante condivisioni, aveva scatenato il panico, e però adesso ad esempio leggo le agenzie che il presidente della Lombardia Roberto Maroni dice: la Spagna rimpatria il prete, l'Italia fa entrare tutti senza controlli. Allora cerchiamo di mettere qualche punto fermo sul rischio che l'Europa corre di diffusioni del virus. Purtroppo attraverso queste affermazioni non si fa altro che aumentare l'allarmismo e creare lo stesso fenomeno che si è creato a Lampedusa ultimamente. Allora, il rischio da Lampedusa è estremamente remoto, la malattia ha un decorso molto rapido, nel giro di una settimana, 10 giorni i sintomi si sviluppano, la persona nel 90% dei casi muoiono purtroppo. Le persone che arrivano a Lampedusa e nelle coste della Sicilia e del sud Italia hanno alle spalle almeno un anno di viaggio, con vicissitudini estremamente gravi. Insomma, come tempi non ci stiamo proprio, una persona che è affetta da Ebola non si mette a fare quel viaggio, e come tempi non ci stiamo. per via aerea. D'altro canto ci sono i sistemi di screening messi appositamente in atto negli aeroporti dell'Africa occidentale, quindi una persona che presenta febbre non viene fatto partire. La persona che è arrivata in Spagna è una persona che ha preso l'Ebola, là stava operando da 50 anni in Liberia ed è stato rimpatriato per essere curato. Non è una persona che è stato contaminato dall'Ebola in aeroporto o in un luogo in Europa. Perfetto, questo giusto per chiarire e evitare appunto certo. Anche strumentalizzazioni su certo. Facili allarmismi. Poi una domanda un po' più delicata, dottor Bellizzi, perché il vostro sforzo come organizzazione non governativa è assolutamente lodevole, però quanto la vostra presenza e il vostro expertise clinico deresponsabilizza i governi africani nell'affrontare un virus, una malattia che è presente in quei paesi? Guardi, Medici Senza Frontiere da solo non può fare granché. In questo tipo di contesto è importantissimo l'ausilio delle autorità locali. Le autorità locali devono essere in prima posizione nel sensibilizzare, nel rendere consapevoli tutte le persone del luogo che la malattia esiste. Ricordiamo che questi paesi non hanno mai avuto epidemie di Ebola alle spalle, come il Congo o l'Uganda. Di conseguenza, non avendo una memoria, non riconoscono la malattia ed è molto più difficile convincerli. Sono le autorità locali che devono veramente cercare di arruolare le persone più autorevoli nella società e far sì che essi si muovano e sensibilizzino tutti. È chiarissimo. Nel frattempo al 349-238-6666 un ascoltatore dice: anche in Angola il virus si sta diffondendo rapidamente, ma dell'Angola si parla poco. A me non risulta, lei dottore? Adesso faremo le dovute ricerche ovviamente, ma a me non risulta al momento. L'Angola ci sono state delle epidemie tempo fa, vari anni fa, in cui abbiamo operato appunto come Medici Senza Frontiere ed è stata arginata più rapidamente rispetto a questa, però non mi risultano dei casi in questo momento. Ecco, allora caro ascoltatore, anzi cara ascoltatrice Tina, noi faremo ulteriori verifiche, ma giusto appunto per evitare che l'allarmismo si propaghi molto più facilmente del virus stesso. L'ultima domanda per lei, dottor Bellizzi, quali sono i bisogni fondamentali che avete? Avete tutta l'attrezzatura, tutti le necessità, insomma, sono colmate oppure lavorate, come dire, in affanno? Lavoriamo in affanno in questo momento perché noi siamo presenti da fine febbraio in Guinea, adesso abbiamo dei centri appunto in Sierra Leone e in Liberia, quindi vari mesi. Abbiamo le stesse persone che operano con un turnover molto alto. Io adesso riscenderò forse in Sierra Leone a settembre per la terza volta, dopo le due volte in Guinea. Quindi c'è veramente, siamo in affanno, abbiamo bisogno di risorse umane, abbiamo bisogno anche di risorse di tipo economico, in quanto l'epidemia andrà avanti sicuramente fino a fine anno o almeno fino ai primi mesi dell'anno prossimo. Di conseguenza è altamente importante la partecipazione delle persone anche qua, in modo che noi possiamo continuare la nostra opera. Chiarissimo. L'ultimissima domanda invece riguarda il fatto della medicina tradizionale, che in molti paesi africani e soprattutto nelle zone rurali è ancora molto molto forte. Quanto vi è d'ostacolo il fatto magari che alcuni malati o presunti malati ricorrano a tisane, a polveri, a tutto quello che certi paesi africani possono produrre in questo senso? Questa è un'ottima osservazione e riguarda soprattutto l'inizio dell'epidemia, perché bisogna ricordare che in paesi come la Guinea soltanto un 30-40% della popolazione, quando ha dei problemi, si recano nei centri del Santé. Quindi il guaritore tradizionale assume un ruolo molto molto importante. In questo momento, appunto, come dicevo prima, è molto importante da parte dell'autorità, e lo stanno facendo, rendere consapevoli anche i guaritori tradizionali insieme agli imam, ai capi quartiere, ai capi villaggio, in modo che tutti collaborino e tutti siamo dalla stessa parte per poter lottare tutti insieme contro l'epidemia. Perfetto, grazie mille per le sue informazioni dottor Saverio Bellizzi, epidemiologo di MSF. Buon lavoro, in bocca al lupo allora per la sua prossima missione. Perfetto, grazie, buona serata. In una situazione di emergenza come questa l'informazione è ovviamente è fondamentale, gioca un ruolo cruciale, non solo l'informazione giornalistica ma anche l'informazione sociale, cioè spiegare alla gente che cosa sta accadendo, spiegare che tipo di malattia è l'Ebola, e di questo si è occupata Maria Cristina Manca, che è antropologa sempre di MSF, che è appena tornata anche lei dalla Guinea Conakry. Dottoressa Manca, buonasera e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. La ringrazio, buonasera a tutti quanti e a lei. Allora, dottoressa Manca, quanto è difficile per voi comunicare quello che sta accadendo alla popolazione locale? Quali resistenze avete incontrato? Ma guardi, vario tipo. Prima tra tutte il problema che l'Ebola era sconosciuta in questa zona dell'Africa, quindi chiaramente una malattia nuova della quale la popolazione ha cercato delle spiegazioni e le ha cercate in vari ambiti, nel senso dal mistico al magico, cercando diciamo chi poteva essere il colpevole. Questo è tutto il territorio anche, nel senso molti villaggi molto lontani dislocati tra di loro e una gran mobilità anche della popolazione. Quanto secondo lei la presenza della medicina tradizionale è problematico? Ha sentito il dottor Bellizzi, no, che citava appunto questa componente che è molto forte. Lei stessa ribadiva il fatto che c'è una componente mistica, poi quella zona dell'Africa è molto forte. Io ho visitato almeno la Guinea-Bissau e lì insomma la componente magica è evidente. Ma diciamo che sono molto d'accordo con il dottor Bellizzi, che ha sottolineato il fatto che all'inizio dell'epidemia le cose poi sono cambiate. Adesso, cioè solo io abbiamo fatto una serie di incontri con i guaritori, con diciamo gli esponenti della medicina tradizionale, con gli imam, con i preti cattolici, voglio dire, con varie figure, proprio per spiegare che è una malattia che esiste e c'è. E questo io credo che quella informazione sia sicuramente passata. Oggi come oggi credo che la popolazione conosca, sappia la malattia, le paure cambiano e secondo me la paura non è più solo rispetto a come mai questa malattia è arrivata, ma da sul fatto che la mortalità è molto alta e quindi è chiaro che è una malattia che spaventa per motivi altri. E quindi diciamo, poi è chiaro che i centri di salute sono pochi, le strutture sanitarie sono poche e le persone a volte fanno con quello che hanno, no? A disposizione. Certo. E quindi a volte con erbe o altro. Nessun luogo è lontano. (349) 238 6666 per le vostre domande, i vostri commenti, e ve ne sono numerosi. Allora, c'è chi dice provocatoriamente: volete dire che si sta fronteggiando l'epidemia con i volontari? Stefano da Verona. No, non stiamo dicendo questo. A parte che volontari è un termine che lascia il tempo che trova, sono professionisti, sono medici, sono antropologi, come nel caso della dottoressa Manca, che lavorano per MSF e hanno quella conoscenza specifica per fronteggiare l'epidemia. E poi le strutture sanitarie locali, pur zoppicanti, questo l'abbiamo capito, stanno mettendo in atto quello che va fatto per fronteggiare l'epidemia. Ricordava il dottor Bellizzi, ad esempio, lo scanner termico negli aeroporti di partenza non fa partire nessuno che abbia la febbre, che è uno dei sintomi del virus, ma potrebbe essere ad esempio sintomo di qualsiasi altra cosa, influenza, malaria, nel rischio non viene fatto partire. E così c'è anche chi dice: ah, quindi rischio remoto, terzomondisti che non siete altro, come ad esempio Sandro. In realtà i puntini puntini erano il preludio a forse a turpiloquio, ma qui mi fermo. Rischio remoto, beh, è stato molto chiaro il dottor Bellizzi sulle precauzioni che vengono prese. Ancora Tina che dice: l'Angola ha stretti rapporti col Portogallo, la stampa portoghese ne sta parlando, verifichiamo. Ripeto, e poi invece c'è chi dice: Ebola è il banco di prova per la cooperazione e la solidarietà internazionale, possibile gangro di crescita della società mondiale. Prime reazioni isteriche, dice questo ascoltatore, all'arrivo della presenza di Ebola sul suolo europeo e americano dispiacciono, ma l'atteggiamento cambierà. Buon pomeriggio. E ancora buon pomeriggio alla dottoressa Manca, antropologa di MSF, che è appena stata in Guinea-Conakry, dove si è occupata di tutta quella parte di comunicazione, cioè dell'incontro con la popolazione, per spiegare cosa sta accadendo, cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Dottoressa Manca, questo virus è particolarmente odioso perché dovendo mettere in quarantena i pazienti e dovendo evitare qualsiasi contatto fisico, perché è lì che si può trasmettere il virus, come dire, allontana il paziente dal curatore, no? Allontana il paziente dalla società, dalla famiglia, eccetera. Quanto, al di là di questo isolamento fisico, quanto stigma c'è nei confronti dei malati? Alcune società africane sanno essere veramente spietate, no? Nel confronto di alcuni malati. Lei che cosa ha notato? Guardi, siamo riusciti a organizzare anche il centro di trattamento, l'ospedale vero e proprio dove sono i malati, con la possibilità di entrare i familiari, accuratamente vestiti chiaramente e non da soli ma accompagnati, e quindi proprio per rompere e per cercare di tenere vicina la famiglia alla persona malata. Quindi diciamo i malati possono essere visitati con tutte le dovute precauzioni. E dopodiché è chiaro che questo appunto è il punto difficile di questa malattia, che si contagia attraverso i fluidi corporei, e che quindi in una società come l'Africa, dove si dorme insieme, si mangia insieme, e quando qualcuno è malato si crea immediatamente rete, e questa rete arriva per aiutare, per lavare i panni, per sostenere la persona malata, è chiaro che è stato uno degli elementi più difficili, e a mio avviso, siccome sono antropologa, non da eliminare ma da trasformare. Chiarissimo. Fra l'altro, appunto, hai risposto in parte anche a un altro SMS che chiedeva: ma si trasmette con i rapporti sessuali? E chiaramente sì, stiamo parlando di fluidi, certo. Corporei. Scusate. Nel frattempo, Mira Lucchetti ha verificato al volo sulla stampa portoghese. Allora, controllato pubblico, Correio de Magna, Journal de Noticias, unica notizia uscita: il governo angolano ha rafforzato le misure di sicurezza per prevenire l'epidemia del virus Ebola. Del virus Ebola, che raggiunge il paese, in particolare attraverso le province di frontiera settentrionali. Poi gli altri articoli che abbiamo trovato risalgono al 2005, quando c'è stata un'altra epidemia. Allora, andiamo avanti nella riflessione, perché dato il suo background appunto di antropologa, la domanda mi viene spontanea: quanto questo virus, ma soprattutto la paura del virus e quindi l'allarmismo, sta incidendo sulla società e quanto sta modificando i comportamenti? In parte un po' mi ha già risposto, perché quando nelle società africane, senza scivolare in facili stereotipi, però quando nella società africana manca quella cosa lì, manca il contatto, manca la vicinanza, insomma, si sgretola uno dei capisaldi, credo. Esattamente, e comunque una digressione veloce: la paura dell'Ebola, come sta dicendo anche lei in questo momento, non è solo in Africa, cioè è una paura universale anche qui da noi. Pronto? La sentiamo perfettamente. Ah, mi scusi. e dopodiché, la nostra idea lì è stata proprio appunto trasformare questi, che non sono stereotipi, voglio dire, sono realtà di modelli di vita, nel senso sono anche società e gruppi diciamo con poche risorse, con poco accesso, e quindi voglio dire sopravvivono in quanto uniti, e il momento dell'unione è fondamentale nei momenti della malattia e della morte. Quindi l'idea è stata appunto la paura anche mia, non distruggere tutto quello che in fondo regge anche in modo positivo una società, ma cercare di trasformarlo e di utilizzarlo per prevenire e per curare, e per aiutare l'accesso delle persone malati alla presa in charge. Certo. Dottoressa Manca, io la saluterei sulle note di una canzone che suona più o meno così. Mi sa che questa canzone lei, dottoressa, la conosce bene. Il cantante è Antoine Flingo, che è un cantante guinense, e però lei ci ha messo lo zampino. Ma diciamo che nella ricerca di trovare delle strategie di sensibilizzazione e comunicazione ad hoc, e a un certo punto ho pensato che forse poteva essere un'idea contattare un cantante come un simbolo della gioventù, un simbolo, una persona che avesse conosciuto lì, e scrivere insieme una canzone su Ebola, che è questa. Che è una canzone anche di speranza, in fondo, e di dire: sì, l'Ebola esiste, però facciamo attenzione, possiamo vincerla tutti insieme. Grazie. Allora, dottoressa Maria Cristina Manca, antropologa di MSF, in bocca al lupo per le prossime missioni e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Kala nya pinga nya benda nya pombo nya ginya ikaura nya bo inara midumu nya jolante 349-238-6666 per commenti, Twitter, Giampazzo, Nessun Luogo 24, Facebook, Nessun Luogo è lontano, trattino, radio 24. Ebola è stato un po' una bandiera benefica che è stata appunto sventolata soprattutto da chi lotta contro l'immigrazione irregolare nel paese, dice attenzione, Lampedusa arriveranno, verremo contagiati, eccetera eccetera, insomma tutta quel tipo di retorica. Allora, proprio di immigrazione voglio parlare, però vi porto in Francia. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Altro che la vie en rose, la vie est dure, è molto dura la vita per i migranti eritrei e sudanesi che sono a Calais, che è questo porto francese graziosissimo dalla doppia vita, perché c'è tutta la parte turistica, i frutti di mare, lo champagne, tutto quello che volete, e poi vicino al porto si ammassano decine, centinaia di migranti che tentano di attraversare la Manica per recarsi a Dover e poi a Londra. Perché ve ne parlo? Perché la diaspora sudanese eritrea è molto forte a Londra. Quasi tutti i migranti di cui vi sto parlando transitano in realtà dall'Italia, non hanno nessuna intenzione né di fare domanda d'asilo qua né di rimanere nel nostro paese, date le condizioni dei richiedenti asilo e date la crisi economica anche ovviamente, quindi si spostano verso il nord Europa. La cronaca ci restituisce episodi di violenza proprio nell'area vicino al porto di Calais, con una gigantesca rissa che sarebbe scoppiata, anziché è scoppiata ieri. Perché? Perché il passaggio tra Calais e Dover viene gestito dai trafficanti di uomini, dagli smuggler. Nella fattispecie pare che un'organizzazione albanese avesse gestito l'accesso vero e proprio all'area portuale. Come funziona? I migranti si nascondono dentro, sotto i camion, magari si legano con delle cinte, poi cercano di imbarcarsi in maniera nascosta nei traghetti e poi per poi uscire quando sono in territorio britannico. Ebbene, come spesso è accaduto in passato, organizzazioni criminali bloccano l'accesso all'area portuale dove si tenta l'operazione di smuggling vera e propria. Nella fattispecie, negli ultimi giorni avrebbero consentito l'accesso solo a cittadini sudanesi, da qui ne sarebbe scaturita una bagarre tra eritrei appunto e sudanesi, e da lì, come titolano molti giornali inglesi e francesi, di nuovo allarme e ordine pubblico a Calais. Perché ve ne parlo di nuovo? Beh, perché da un lato, ripeto, a leggere i giornali internazionali la situazione a Calais sta nuovamente cambiando, nel senso che io l'ultima volta che ero stato, e parlo di un anno e mezzo fa, i migranti soggiornavano nelle varie località della costa, Dunkirk, Calais e le altre, in attesa di tentare questo assalto al porto, chiamiamolo così. Adesso invece, come era successo già in passato, ad esempio con la costruzione di campi giganteschi, una veniva chiamata la giungla dove si radunavano gli afghani, adesso c'è di nuovo una tendenza a raggrupparsi, e normalmente i gruppi sono appunto su base etnica. Gli eritrei stanno tra di loro, i sudanesi stanno tra di loro, gli afghani tra di loro. E potete immaginare che la recrudescenza dei conflitti, anzi il proseguire di certi conflitti dalla Siria in giù, le situazioni in Sudan, in Eritrea eccetera, non fanno che alimentare questo flusso di persone che scappa dai conflitti e che non sceglie l'Italia assolutamente come luogo in cui stare. Quindi anche quegli allarmi all'invasione in realtà sono abbastanza immotivati, da un lato perché, come ci ha ricordato il professor Vassallo Paleologo la settimana scorsa, se lo ricordate, il bilancio tra gli stranieri che entrano e quelli che escono è in negativo, cioè ne escono di più di quelli che entrano. In secondo luogo, molti di quelli che arrivano non vogliono assolutamente stare in Italia e puntano piuttosto alla capitale britannica. L'altro fenomeno che mi preme sottolineare è che, così come sono costruiti i confini, non si fa altro che alimentare il business dei trafficanti di uomini, che sulle frontiere e sui muri lucra svariati milioni di euro ogni anno. E questo era un piccolo flash su quella rotta migratoria che è sempre così importante tra Francia e Inghilterra. Adesso le informazioni sulla viabilità, poi andremo in Cambogia. Nessun luogo è lontano. Allora, prima di andare in Cambogia per questo storico processo a due anziani, Khmer Rossi, ancora sms al 349-238-6666. Caro ascoltatore che mi dice, inutile ripetere il numero, se poi i messaggi non li leggete sono qua a leggerli, riscriva perché non lo trovo il suo, quindi abbe pazienza. E poi c'è chi mi accusa di essere assolutamente schierato, anche in una tragedia come Ebola, ne approfitto per parlare male del governatore Maroni e poi parla lei di retorica fatta dagli altri, si facesse un esame di coscienza. Paolo, da Bologna, non ho parlato male del governatore Maroni, ho ripetuto una dichiarazione battuta dalle agenzie e di questa ho chiesto conto a un esperto epidemiologo e da lì ho detto stiamo attenti alle strumentalizzazioni e ai facili allarmismi. L'ho detto io, ma l'ha detto anche l'epidemiologo. E poi c'è chi è in preda al più disastrato pessimismo, non illudiamoci, ci andremo dentro anche noi, poi chi dovremo ringraziare? Va bene, adesso, come detto, andiamo in Cambogia perché c'è un processo storico di cui voglio rendervi conto. Three and a half decades after the genocidal rule of Cambodia's Khmer Rouge ended. Two top Khmer Rouge leaders have been jailed for life after being convicted by Cambodia's UN-backed Tribunal of Crimes Against Humanity. Nguyen Chia and Khieu Samphan were both convicted of crimes against humanity and sentenced to life in prison. Allora, sono colpevoli, andranno all'ergastolo Nguyen Chia e Khieu Samphan, uno di 88, l'altro di 83 anni. Erano tra i leader di quel gruppo di seguaci di Pol Pot che tra il 75 e il 79 fecero quasi 2 milioni di morti. In queste ore il Tribunale Speciale per Crimini di Guerra in Cambogia, guidato e sostenuto anche dalle Nazioni Unite, si era riunito per le atrocità, per i crimini contro l'umanità compiuti appunto durante gli anni 70 da Pol Pot. Per capire meglio l'importanza di questo processo, il contesto in cui è avvenuto, do il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano, Andrea Pira, giornalista di China Files. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da questo processo che è a tutti i crismi di un processo storico, nonostante venga celebrato così tanti anni dopo i fatti che vengono contestati ai due imputati. Aiutaci a capire meglio cos'era quel regime, per cosa sono stati condannati, un quadro storico sinteticamente. Sì, beh, per prima cosa bisogna effettivamente dire che giustizia è fatta, almeno si è iniziata a fare giustizia su quello che furono i crimini del regime dei Khmer Rossi in Cambogia. Stiamo parlando di circa 1.700.000 persone uccise nel giro di 3 anni, prima dal 75 al 79, quindi. Questo poi uccisi per fame, stenti, assassini sommari, torture, quindi stiamo parlando del progetto di creare da nuovo una società diciamo utopistica, agraria, che si rifacesse alle tradizioni, venata sicuramente un sottofondo di marxismo, di comunismo, che alcuni dei leader principali avevano, diciamo, sposato nel sud-est asiatico dell'epoca, sì, con i vari movimenti di liberazione. Quindi questo è il contesto in cui si è creato questo genocidio, e con, tra le altre cose, anche venature locali, come si è, diciamo, sviluppato per questo movimento, con una forte, diciamo, volontà di ritorno, diciamo, all'antico passato di Angkor e del regno di Angkor, che era messo come, diciamo, orizzonte, diciamo un uomo nuovo che guardava al futuro ma allo stesso tempo cercava le radici nel passato Khmer e cambogiano. Chiaro. Andrea Pira, intanto come sei arrivati così tanti anni dopo a questo processo così importante? Perché così tanto tempo? Ma non va dimenticato che dopo la caduta del regime, dopo l'invasione vietnamita dalla Cambogia. Per lungo tempo, diciamo, i Khmer, che erano in coalizione, i Khmer Rossi, che erano in coalizione con il re in esilio Sihanouk, furono considerati dalla comunità internazionale, diciamo, come il governo legittimo della Cambogia. Poi dopo le elezioni, prima nel 90, il ritorno della democrazia, lì da una parte il movimento continuò la sua attività nella giungla, l'anno scorso nella giungla e con le basi in Thailandia. Invece all'interno della Cambogia molti ex Khmer rossi continuando comunque ad avere ruoli nel governo, anche l'attuale primo ministro Hun Sen comunque è un ex Khmer rosso, quindi molti mantennero, diciamo, le loro posizioni di potere. Quando anche la gestazione, diciamo, del tribunale è stata abbastanza travagliata, si è arrivata solamente nel 2006 alla formazione del tribunale, che per adesso ha avuto, questo è il secondo verdetto ovviamente. Sì. Quindi diciamo un po' incrocio di poteri tra una cosa e l'altra. Insomma, incrocio di interessi. Mi sembra di capire dalle tue parole, Andrea, che il passato in realtà, anzi il presente è profondamente intriso del passato. E in questo paese ed è difficile forse tentare di sgrovigliare una matassa che appunto affonda i suoi fili, insomma, in quel tragico e dolorosissimo passato. Che ripercussioni politiche ci possono avere per questo paese dopo questa sentenza? Cosa può cambiare a livello di equilibri? Ma su cambiamenti personalmente non credo tanto, per due motivi, perché fondamentalmente, diciamo, questo processo ha condannato i due maggiorenti, che sono ormai che sono l'ex Nguyen Che, che è l'ex ideologo, detto anche il fratello numero due, diciamo secondo solo a Pol Pot nella gerarchia del partito, e l'altro l'ex capo di Stato Khun Somphone, che tra le altre cose ha sempre cercato di mostrarsi estraneo a quanto succedeva, dicendo che lui non sapeva quello che stava accadendo nel paese. Questo pone, diciamo, questo è il caso numero due del processo. Esistono altri due casi, il 03 e il 04, che andrebbero ad allargare le persone da coinvolgere e che si vuole un attimo cercare di bloccare, o che si sta cercando, soprattutto il governo cerca di ostacolare un po' lo svolgimento di questi due processi, perché andrebbe forse a toccare una serie di personaggi che adesso hanno ancora dei ruoli nel paese. D'altra parte il paese, calcolando anche il genocidio che c'è stato, è un paese molto giovane. Certo. La maggior parte dei ragazzi delle nuove generazioni non ha troppa memoria di quello che è successo, quindi cosa accadrà. La fotografia che è carissima. Io ti ringrazio, Andrea Pira, giornalista di China Files, per questo tuo report su questo importante processo e anche per averci aiutato a capire un paese così lontano e per buona parte di noi sconosciuto. Grazie Andrea, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, 349-238-6666, allora c'è chi mi solletica sul dire qualcosa rispetto al sequestro delle due italiane, assolutamente no, non dirò nulla, se lo farò lo farò a vicenda oramai conclusa, credo che il silenzio sia la ricetta migliore in casi come questa. Poi all'ascoltatore che diceva non mi leggi, mannaggia te, no, allora l'ho trovato, diceva l'ascoltatore che di Ebola ne esiste anche un ceppo aereo, mi sembra importante, Mauro da Ferrara, sì hai ragione, è assolutamente importante, gentilissimo Mauro. Abbiamo richiamato Bellizzi, il dottor Bellizzi dice il ceppo aereo è stato identificato nelle Filippine ma solo nei primati, quindi solo nelle scimmie, mai riscontrato per epidemie tra esseri umani. Questo per tentare di rimettere un altro puntino fermo, lo ripeto, su un tema che capisco scatena paure, scatena ansie, anche forse irrazionali, ma cerchiamo di non strumentalizzarle per agende politiche che nulla hanno a che fare con un'emergenza sanitaria. In proposito c'è qualche altro ascoltatore che dice: ecco, se poi ci troveremo nella palta sappiamo chi ringraziare, se l'Ebola ci colpirà e colpirà, diremo grazie a Renzi, al suo amico Alfano, ma che bravi, ciao Franco. Questo appunto un altro degli ascoltatori. Poi invece c'è un altro in diretta che voleva intervenire, vediamo. Claudio da Piacenza, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, volevo intervenire per quanto riguarda il discorso di Ebola, di questa malattia. Niente, volevo dire che innanzitutto non è una malattia nuova, diciamo questa malattia riguarda gli anni 70-80, i primi casi sono venuti proprio in quel periodo, nasceva nello Zaire, è stato contagiato una persona che diciamo lavorava nella foresta, quindi probabilmente attraverso l'alimentazione di determinati animali. Questa persona è stata contagiata, poi nel giro di 7-8 giorni è morta, perché poi questo virus, essendo che si prende attraverso attraverso anche l'alimentazione, attraverso via aerea, niente, questa persona poi è morta, hanno fatto diverse ricerche su questa malattia e niente, poi la cosa è stata abbandonata perché la cosa poi è andata un po' sfumando. Ma niente, volevo dire questo, che non è nuovo, e quindi questa malattia oltretutto Ma lei, Claudio, scusi se la interrompo, lei ha una formazione medica, insomma si occupa di queste cose in qualche modo? No, è semplice curioso. Io mi documento, avevo sentito parlare già anni fa, poi mi sono documentato, e quindi non è una cosa nuova. Oltretutto la persona, difatti i sintomi di questa persona, di questo americano che lo fanno vedere che cammina barcollando, erano gli stessi sintomi di questa persona che è americana, che poi è stata ricoverata penso in Atlanta, dove allora sempre quelle persone diciamo venivano poi chiaramente cioè avevano preso la cosa in quella stessa regione che è stata poi menzionata nell'Atlanta. Chiarissimo. Esce sangue dalle orecchie, dal naso, è una malattia un po' brutta, agonizzante. È stato chiarissimo, grazie Claudio da Piacenza, che ci ha ricordato appunto le origini senza un background medico clinico, però insomma si era informato. È vero, fra l'altro noi in una scorsa edizione, forse un paio d'anni fa, facemmo uno speciale su Ebola in Uganda, credo fosse all'epoca. Ha ancora tempo di qualche sms? Sì, scusate. Allora, dunque, c'è chi dice: non siamo tutti stupidi, la scorsa settimana il vostro ospite ha detto che chi emigra dall'Italia sono più di quelli che arrivano. Esatto, ma tra chi va ce ne sono anche gli italiani. Sì, questa era la mia risposta, era a chi grida all'invasione da parte dei migranti. Non è tecnicamente un'invasione nel momento in cui il bilancio è negativo, questo è un fatto, è un numero. Poi c'è chi mi dice che sono inascoltabile, sono filo governativo, schierato, sminuite tutto, vi assicuro che di extracomunitari Roma sta traboccando, non avete occhi, se volete mi rendo disponibile per il giro turistico, eccetera eccetera. Filo governativo, non capisco cosa vuol dire, cosa sminuisco non lo capisco nemmeno. Mi occupo di immigrazione dal 2006, seguo le rotte dei migranti, conosco abbastanza bene la situazione, non sminuisco assolutamente nulla, ma parleremo di immigrazione nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. E allora sì, mi immagino quale rabbia scatenerò in alcuni degli ascoltatori. Allora, siamo quasi in chiusura, sì, titoli di coda. E nei titoli posso ringraziare, anzi devo ringraziare, Mira Lucchetti, Nadia Zammitti in redazione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, voi per aver contribuito alla ricchezza di questo programma. Non vi è nessuna censura, vi assicuro, scrivete, io cercherò di recepire i vostri input e rispondere nel più breve tempo possibile. Le critiche non mi fanno paura, ricordate che Nessun Luogo è Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.